Stiamo alla Dark House, Dark House. Nello spazio come spesso c'è un Daffy Duck. Ghiaccio sul mio pozzo, bling blau. Baby, muovi quel culo, baci jumping. Per sti soldi siamo pazzi, scimmio ubriachi. 31 ottobre ogni giorno, maschera in faccia. Jeans stretti, fumo Buddha, ci stru religion. Bel sorriso d'antidoro come uno zingaro. Che un'altra testa, abbiamo fame come un cerbero. Gran finale, grande cuore, piccolo principe. Non sai come noi, non puoi capirci. I soldi che spendo cash, ho capito il ciclo. Dark Paris, baby. Puttana, grida, urla gang gang, ho preso un nemico. Possiamo andare traffico, Kiko Rodriguez. R.A. M.A.D. P.C. 777. Non cazzi con la Dark, non cazzi con la Dark. D.P.C. abbiamo crack, D.P.C. abbiamo crack. Ora c'ello come Bart, ora c'ello come Bart. La mia cinta Ferragamo, la mia cinta Ferragamo. Non ho problemi con la Dark, non ho problemi con la Dark. La puttana fa bau, la puttana fa bau. Parex bello figo Dark, Parex bello figo Dark. La mia cinta Ferragamo, la mia cinta Ferragamo. Non ho cazzi con la Dark, non ho cazzi con la Dark. D.P.C. abbiamo crack, D.P.C. abbiamo crack. Ora c'ello come Bart, ora c'ello come Bart. La mia cinta Ferragamo, la mia cinta Ferragamo. Non ho problemi con la Dark, non ho problemi con la Dark. La puttana fa bau, la puttana fa bau. Parex bello figo Dark, Parex bello figo Dark. La mia cinta Ferragamo, la mia cinta Ferragamo. Lei non mangia che non dessert. Succo di zanzero, gingerella. Ganza col diavolo, tango, valzer. Correndo verso i soldi come un touchdown. Il fratello di mio fratello è mio fratello. Massa in fama, fallo fuori come Romolo e Remo. 94, baby, stiamo fuori sul serio. Siamo quei figli di puttana come Romolo e Remo. Come Romolo e Remo, prendiamo in mano la città. La facciamo tremare. Sette gali, sette re, sette peccati capitali. Per ex bimbo vestito bianco come gli angeli. Sei un vero demone, non puoi volare senza ali. Puoi provare a essere noi, ma non sposti le montagne. PC, mandiamo a fuoco tutto quanto. 500 cavalli, cavallo nero, Ferrari, cavalli neri selvaggi. Non mi cazzi con la Dark, non mi cazzi con la Dark. D.P.C. abbiamo crack, D.P.C. abbiamo crack. Ora c'ello come Bart, ora c'ello come Bart. La mia cinta Ferragamo, la mia cinta Ferragamo. Non ho problemi con la Dark, non ho problemi con la Dark. La puttana fa bau, la puttana fa bau. Parex bello figo Dark, Parex bello figo Dark. La mia cinta Ferragamo, la mia cinta Ferragamo. Non mi cazzi con la Dark, non mi cazzi con la Dark. D.P.C. abbiamo crack, D.P.C. abbiamo crack. Ora c'ello come Bart, ora c'ello come Bart. La mia cinta Ferragamo, la mia cinta Ferragamo. Non ho problemi con la Dark, non ho problemi con la Dark. La puttana fa bau, la puttana fa bau. Parex bello figo Dark, Parex bello figo Dark. La mia cinta Ferragamo.